Si era d'estate. Gli alberi erano carichi di foglie verdi che il vento del mattino muoveva, e tu portavi quel vestito bianco a pallini azzurri. Si era d'estate, lo stesso giorno, solo 3 ore più tardi, e tu camminando. Io guardavo la tua ombra fare negli intrichi dell'erba delle comiche punte irrequiete, e poi i grilli e gli uccelli volatili si allontanarono spaventati, lasciandoci. Si era d'inverno, e la città aveva 12.000 luci che si riflettevano sull'asfalto. La porta allora si aprì e tu, sulla sedia a dondolo vicino alla stufa, stavi cucendo. Eri sola e voltasti il capo con un sorriso. Si era ancora d'inverno, finestre e porte erano ben chiuse a motivo del freddo. Si udì il fischio di un treno. Tu guardavi l'orologio e leggevi sulle lancette l'ora tarda della notte, 2:05, con un sospiro, senza riuscire a prendere sonno. Si era di maggio, le finestre questa volta erano aperte, ma gli uomini addormentati non videro il nuovo giorno che nasceva sui grandi palazzi dei miliardari. Non vedemmo la luce dell'alba, che portava una quantità di speranze, mentre la brezza faceva oscillare le bandierine di ferro sui tetti e le insegne livide dei tabarin. Si era di domenica, nel medesimo mese. Sulle montagne, all'orizzonte, le nubi lasciavano qua e là lunghe ombre denotanti pomeriggio avanzato e agguati di pelli rosse della savana. Era il giorno della partita Italia-Venezuela. Alla fermata del tram tu eri pallida e dicesti: mi fa un po' male qui. Si era d'estate, gli alberi di nuovo carichi di foglie verdi, la porta a un tratto si aprì, ero io che entravo e la seggiola vuota dondolava ancora un pochino da sola, come se qualcuno l'avesse poco prima toccata. Si era di lunedì 15 novembre e fuori, nella via, alcune foglie secche stridendo lungo i marciapiedi. La sedia non dondolava assolutamente più, tanto valeva che avesse 4 geometriche gambe come tutte le altre. Si era di martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, e nessuno entrava. Per la via autocarri e autocarri. Si era semplicemente coloro che restano a guardare e non capiscono bene che cosa sia successo. Si guardano intorno, camminando su e giù nervosamente, perché non riescono a spiegarsi come mai.